In realtà mi fa piacere essere qui per svariati motivi, ma uno in particolare fa parte dei miei inizi, è un ricordo, ma ormai memoria. È quando sono arrivato a Bologna, a un certo punto un'amica mi parlò, mi occupavo di Albino Pierro, poeta lucano. E mi parlò di un libro che stava uscendo per In forma di parole. Devo esserti sincero, io non sapevo Cosa fosse la cosa vita? fosse, ero appena arrivato da Salerno, ero un ragazzo, io cominciavo Certo. in quei momenti a compiere i primi passi. Anno, tanto per Siamo a precisarci, 2000, nel 2000. Ok, 2000-2001. 25-24 anni fa. Buonasera, prego. Questa amica mi disse di In forma di parole, devi assolutamente conoscere Gianni Scalia, perché vedrai. Ti farà conoscere questo libro, parlerete molto di Pierro. E un giorno sono andato a suonare a casa sua, perché mi avevano dato l'indirizzo in via Eh Castiglione, sì, casa mia. che numero era? 12, 22. Sono andato a suonare e lui ha detto no, sali, sali. Cioè, mi sembrava già strano, cioè, sono salito sopra, siamo andati e appena sono arrivato, come ti chiami Domenico? Ah, Mimmo. E poi diamoci del tu. Okay. E iniziamo a chiacchierare, mi faceva delle domande, e dice, ma puoi venire la settimana prossima? Ed è diventato un appuntamento per me settimanale, a volte parlavamo, cioè, parlava lui, parlavo io, guardavamo anche il telegiornale, era fantastico vedere Gianni, i commenti, cioè, se avessi trascritto i commenti era un libro. E qualche volta capitava mi invitava anche durante le riunioni di redazione. E lì ho incontrato la prima volta Riccardo Corsi. Ci siamo trovati lì e poi il tempo è passato e dopo tanti anni ci siamo ritrovati anche di nuovo con Riccardo, che è il mio editore del mio ultimo libro. E nel frattempo ho avuto modo anche di leggere i libri di Riccardo, che mi erano vicini per un approccio che per me è interessante in un libro. Non sono un grande lettore di romanzi, ma se c'è una forma che posso accettare nel romanzo è quello che rompe quegli argini, che rompe i margini di uno schema. E i libri di Riccardo in realtà fanno quello, lo fanno completamente e così mi mettono a mio agio, mi rendono libero. E io ho bisogno di essere libero in un libro. Sia quando lo scrivi Sì, che quando forse sei un anche più lettore quando lo leggo. Quando lo scrivo in realtà non sono libero, sono completamente alla mercé della scrittura di un pensiero o di un sentimento, non si è mai veramente liberi. Forse si è liberi più con l'altro che con se stessi, secondo me, almeno per quanto mi riguarda. È l'unica libertà che posso conquistarmi attraverso l'altro, attraverso di me è carcere a vita. Soprattutto anche la parola. E anche questo libro, La Stella dei Mondi, che presentiamo stasera, è la conferma di quello che dicevo pochi istanti fa. È la possibilità di leggere, di fermarsi e di non perdere mai un filo, perché il filo nei libri di Riccardo, nonostante ci sia il suo cammino, ma in realtà trovi il tuo cammino ed è la cosa più affascinante. E se mi permettete vorrei iniziare con un testo, leggere un testo, una parte, una scelta che ho fatto per poter entrare subito in una zona del libro che per me è interessante, forse è un po' il denominatore comune è la lente, che mi è sempre di fronte per poter leggere questo libro. E poi vi dirò che cos'è, si capirà. Li abbiamo incatenati, prigionieri dentro gli specchi. Essi ci imitano, sono costretti ad assecondare ogni nostro movimento. La donna fuori dallo specchio si pettina, lentamente, si trucca. Dentro l'ovale dello specchio una figura speculare imita fino all'ossessione i suoi gesti, come se non potesse sfuggire a quel destino. Un bambino si guarda un dente che sta per cadere. Dentro un altro bambino compie lo stesso movimento. Un uomo si aggiusta il nodo scorsoio della cravatta. L'immagine dentro lo specchio, se potesse, stringerebbe la cravatta dell'uomo fuori fino a spezzargli il collo. Ma non può. Non può. Noi siamo coloro che abitano fuori della crisalide. Così chiamiamo il mondo all'esterno dello specchio. La crisalide. Presto ci vendicheremo. Gli umani là fuori ci deridono. Si fanno beffe di noi. Siamo i loro cagnolini al guinzaglio. Per loro non esistiamo. È giunta l'ora di tornare a respirare nella crisalide, il mondo fuori degli specchi. I suonatori di liuto si stanno preparando. Essi origliano, in punta di piedi. Osservano quando gli umani non ci guardano, quando non si specchiano. Volevamo conquistare crisalide, annientarla, smettendo di essere ombre chiuse dentro gli specchi, costrette ad imitare le azioni, tutte degli umani. Ma ora che siamo fuori, ci accorgiamo che le ombre sono loro. Crisalide abitata da ombre. Gli umani sono l'ombra di se stessi, copie, imitazioni grossolane, simulacri di ciò che sono stati, di ciò che erano. Adesso, mentre entriamo nelle loro case, saccheggiamo i magazzini e le dispense, violentiamo e uccidiamo, come ogni essere vincitore. Siamo accompagnati da una sensazione di sconfitta, di amara disillusione, come se ciò che ci era stato sottratto non potesse oggi esserci restituito. È come, cioè, tutto il libro, tutto ciò che riesco a vedere nella parola di questo libro è dettato da una soglia, la soglia dello specchio. In realtà Riccardo dà subito un segnale in una delle prime epigrafi del libro, dove cita Borges, che vedeva in un, non so Riccardo da quale racconto viene quel... Dei racconti fantastici di Borges, che riprende, lui finge di riprendere un racconto cinese dell'Oriente, in cui le creature dello specchio torneranno nel nostro mondo e ne prenderanno il possesso. Quando una volta il mondo invece era una sola cosa, non c'era uno specchio, non c'era questo specchio, è come se fosse comunque una lastra che prima o poi si scioglierà. E come la scioglie? Come si scioglie? Secondo me attraverso la parola, attraverso la poesia. E in vari punti nel libro Riccardo incide questo senso, lo traccia attraverso vari momenti, per far capire che c'è la possibilità di aprire questo varco, perché il varco esiste, ma non lo vediamo, perché il varco è invisibile. E la poesia è l'unico, diciamo, la poesia è l'unico sguardo che può guardare l'invisibile. E il libro un po' per me è questo cammino fatto di tante altre stratificazioni, però è come se ogni volta leggendolo torno lì e torna dentro di me, perché torna un problema che io ho. Perché anche la scrittura è uno specchio. E lì c'è il problema. Dove trovare quel varco? Perché la scrittura ti offre una possibilità, ma te ne chiude tante altre. Può diventare il coltello a doppia lama, nel senso che devi tagliarti, certo. Se veramente, devi tenerlo dall'altra parte. Questo è il mio primo approccio, ma anche quello più significativo, che mi ha dato la possibilità anche di trovare quel cammino di cui parlavo prima e di arrivare all'inizio del libro, perché è un libro che non c'è la fine, è l'inizio, è sempre l'inizio, e ogni frase ha questa capacità di riportarsi a quell'inizio, perché solo così possiamo vedere il varco. Riccardo, come dicevo, non è il suo primo libro. In realtà c'è una parte nell'appendice, Riccardo traccia un po' il cammino di questi tre libri, perché dice oltre 15 anni sono trascorsi da quando al ritorno da un viaggio a Praga cominciavo ad annotare a matita su un quadernetto per scrivere Musica Blu i primi frammenti di quello che sarebbe diventato Il Libro del Vento. Gliel'hai dato tu il quadernetto? Poi dopo ne mi interessa anche questo, perché anche il supporto, scegliere un altro, questo è fondamentale, uscire fuori dalla griglia. I primi frammenti di quello che sarebbe diventato Il libro del vento, e vi dico che è il mio libro preferito, Il libro del vento, pubblicato poi nel 2016. Nel 2020 esce il secondo libro, Il mare della terra, e ora questo libro, il terzo, La stella dei mondi. A conclusione, ma qui non si tratta di finire, ma di aprirsi ad altro, di quella trilogia, tra parentesi, trittico. Riccardo, ci puoi un po' parlare, anche perché trittico, non trilogia, come arriva un po' il cammino di questi tre libri? Come dentro di te si parlavano già prima? Perché se scrivi non si tratta di finire, ma di aprirsi all'altro, allora mi viene da pensare che questo libro esisteva già prima. Forse, adesso aspetta. Si sente? Provo. No, credo che quello che dica Domenico mi ci ritrovo, nel senso che continuo a pensare a questi tre libri come romanzi, però sono dei romanzi, a partire dal Libro del Vento, che è il primo, in cui la forma, la struttura del romanzo salta in un certo senso, salta e segue un altro cammino che è quello del frammento, oppure l'immagine che mi viene in mente è il fiore che si apre e si chiude, quindi è come se attraverso il caos si ricercasse un'altra forma. E Domenico diceva, e quest'altra forma è un avvicinarsi alla poesia, cioè cercando di sciogliere in un certo senso quelle dicotomie che in cui noi in Occidente ormai siamo prigionieri, no? Che vuol dire visibile e invisibile, vita morte, corpo spirito, pensare anche natura e realtà. Soprattutto c'è un grande poeta che noi amiamo moltissimo, che abbiamo pubblicato la corrispondenza tra Maria Zambrano e Lezama Lima, che non parla mai di realtà in realtà, ma di immaginazione. Cioè l'immaginazione, quindi la parola, viene prima della realtà e del mondo. Questo è anche un pensiero del Vangelo di Giovanni, che citava sempre Gianni Scalia. E in questo libro, questi libri sono frammenti di un cammino che è orientato a risanare delle ferite. Cioè queste ferite sono ferite della percezione, nel senso che è il modo in cui noi percepiamo il mondo. E quindi, soprattutto nel primo, nel Libro del Vento, c'è un tornare a sentire in modo primitivo. E, per esempio, io non scrivo di getto, e grazie ad Antonello, su questi quaderni di musica, anche se non so leggere la musica, almeno. Però a matita, naturalmente, sempre a matita, perché credo, e poi magari leggeremo dei frammenti, pur scrivendo in prosa, di essere molto vicino all'apertura che dà la poesia, però non in versi, nel senso che quando comincio a scrivere in versi c'è qualcosa che non va. Queste, per esempio, vi leggo un frammentino del Libro del Vento. Quindi queste prose sono scritte di getto, e quindi è la lingua che dà il ritmo, o vengono fuori dai sogni. Infatti ci sono, per esempio, addirittura nel Libro del Vento c'è ho sognato un gioco, una specie di Rajuela alla Cortázar, cioè di gioco del mondo, in cui ci sono delle immagini, oppure e si tratta di imparare a giocare, insomma. Oppure, per esempio, nel Libro del Vento c'è Gatto sotto una pioggia di francobolli. Il gatto in realtà va rovesciato, cioè la pioggia è sotto e il gatto è sopra. Allora, nel Libro del Vento c'è l'isola di Campa a Praga, dove era il luogo di un grande poeta, dove sono stato per motivi di lavoro, Vladimir Holand. Quindi diciamo, in ognuno dei miei libri la poesia ritorna o attraverso delle figure guida, oppure attraverso citazioni che a loro volta diventano come il fuoco che brucia, danno luogo a un altro pensiero, insomma. Leggerò una cosa del Libro del Vento, per esempio. Passeggiata, un uomo incontra il vecchio poeta nei giardini di Campa e lo interroga, e qui c'è una citazione. Perché lavorate a un nuovo libro sapendo che presto dovrete morire? E lui, e anche per via di solitudine, la quale non vuole essere sola, eppure così dimora. E poi ci sono, c'è una foto in bianco e nero dell'isola di Campa. Questi libri quindi sono vicini alla poesia, ma ci sono dei personaggi. Per esempio nel Libro del Vento il personaggio è un personaggio che viene da un pittore cieco che si chiama František, forse lo pronuncio male, di Tirol, ed è un centauro rovesciato, cioè con la testa di cavallo e il corpo umano. Qui addirittura è un centauro che cavalca un cavallo con la testa umana, quindi sono due centauri rovesciati. Il primo libro si chiama Incroci simbolici, quindi l'incrocio è quella figura, ecco, è lo specchio nella stella dei mondi, nel nostro modo di vivere, in un certo senso una realtà dimidiata in cui la coscienza e l'inconscio, se così possiamo dire, sono separati, cos'è che li riunisce? È l'immaginazione. E quindi sono libri di immaginazione, e nel senso in cui la intende Corben, cioè l'immaginazione è il luogo dove la realtà si fa spirituale e lo spirito si fa carnale. È un luogo mediano che i persiani chiamavano mundus imaginalis, che noi abbiamo perduto in un certo senso. Henri Corben, sì. Non so, Antonello, vuoi... E in effetti a un certo punto del libro, io l'ho trascritto, credo sia pagina, non so, 170, dice che la stella dei mondi è l'incrocio degli incroci, poi più avanti ciò che per voi è l'istante per noi è l'eternità, non c'è divisione o speranza, non c'è vita o morte, alba o tramonto, corpo o spirito, l'anima è carnale e la carne è anima le, tra virgolette. E proprio questo è il tentativo del libro, di trovare questo libro e quello spazio lì per rompere proprio tutta quella serie di griglie dove sia la letteratura, la prosa, la poesia, e forse anche lavorare sui quadernetti in questo caso, e anche in una forma, cioè scrivere là dove non è prevista la parola ma è prevista la musica, cioè spostare la visione. Spostando la visione ti ritrovi in uno spazio che si chiama la stella dei mondi, per me. Ti passo la parola. Sì, proprio su questa cosa che ha detto adesso Domenico. Mi riaggancio perché io ho trovato molto utile in un libro che non è facilissimo da leggere, non è immediato come può essere un racconto o un romanzo ai quali magari siamo abituati e ci facciamo coccolare dalla trama e quindi stiamo lì quasi a farci usare dal libro. No, qui ci vuole un impegno notevole, bisogna entrare nel meccanismo, chiamiamolo così. A me hanno aiutato parecchio un paio di cose. La prima è la presenza massiccia di scrittura aforistica. Riccardo, ne abbiamo parlato tante volte, ma anche con Domenico, della mia passione per la scrittura aforistica concisa, questi interventi minimi nei quali però, come dirò tra poco, si può leggere tantissimo, a volte molto di più di quello che leggi in decine e decine di pagine. E la definizione, forse la migliore, quella che aiuta di più, la dà lo stesso Riccardo. A pagina 24 scrive: questo libro rompe le barriere tra il romanzo, il racconto, l'aforisma, la poesia, le citazioni. Cadono le barriere di genere nella lingua. Io ho aggiunto a matita sotto, il libro è anche un libro di immagini, basta sfogliarlo così velocemente e se ne vedono di meravigliose, anche di questo, prese da tutto il mondo, da tutte le culture. Ce n'è uno bellissimo, non lo dico perché qui, ma l'albero di melograno di Teresa lo trovo straordinario, ma ce ne sono tanti altri. E, tornando alla scrittura aforistica, c'è una frase, chi mi conosce sa bene della mia fissazione per Elia Scanetti, ne parlo sempre, e lui è stato un grandissimo scrittore di aforismi. A differenza di quello che spesso si dice, i suoi quaderni di appunti non sono quaderni di aforismi, sono quaderni di appunti più svariati, a volte durano 2, 3, 4 pagine, a volte sono più concisi. Spessissimo fa uso di queste immagini folgoranti. E a proposito di questa scrittura di Riccardo, proprio al volo, facendo così col libro, banalmente come facciamo spesso nelle librerie prima di acquistarne uno, si vede che la presenza degli aforismi è notevole, ce ne sono tanti. E, in un'opera che Manuela sicuramente conosce, o quantomeno sa meglio di noi di cosa sto per dire, un'opera di Anton Webern, che sono le sei bagatelle per quartetti d'archi, l'opera 9, del 1913, sono sei composizioni per quartetto d'archi che vanno da un minimo di 22 secondi ad un massimo di un minuto e 14, quindi veramente dei lampi, non so come dire, dei lampi. E a questa partitura, tutt'oggi in commercio si trova questa partitura con un piccolo esergo che volle apporvi l'insegnante di Anton Webern, che era Schoenberg. E Schoenberg scrisse: «Si consideri quanta sobrietà occorre per esprimersi così concisamente. Ogni sguardo può espandersi in una poesia, ogni sospiro in un romanzo». Ed è esattamente quello che ho provato leggendo il libro di Riccardo. E, non lo so, ne cito due così, en passant. E, a pagina 50 e a pagina 51. Il cielo è una lucertola. E questo è notevole, perché se pensiamo a quante volte, ipnosi, credo sia il titolo del paragrafo, posso chiamarlo paragrafo, il cielo è una lucertola. Qui ovviamente ognuno poi legge quello che vuole, quello che gli ispira queste cinque parole, ma quanti di noi sono stati stesi sotto un cielo stellato, sotto un cielo illuminato dal sole, pieno di nuvole, a vedere cosa quel cielo in quel momento ispira? Ed è già uno specchio di quello che tu vedi, magari chi sta accanto a te, se c'è qualcuno accanto a te, non vede niente, assolutamente niente, o vede completamente un'altra cosa. Oppure ce n'era un altro molto vicino a questa, meno aforistica come scrittura, ma all'interno di una frase un po' più lunga si possono estrapolare: il mare è davanti a me, il mare è verticale. Non è così consueto sentire la definizione di mare verticale. Creatura liscia o ruvida a seconda dell'umore dei venti, infinito racchiuso in una forma, proprio quello che dice Schoenberg, infinito racchiuso in una sì, questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. E poi ce n'è un'altra, sempre a proposito del mio amato Canetti, che diceva che lui aveva l'impressione che gli scrittori di aforismi si conoscessero un po' tutti tra loro, ma con questo non intendeva dire che si scopiazzavano a vicenda, perché a lui capitava di non aver mai letto un autore, e poi dopo averlo letto si accorgeva che cose scritte in passato gli assomigliavano, sia negli argomenti, sia nella forma. E io ho trovato una di queste coincidenze. Metterei la mano sul fuoco che magari Riccardo non ha mai letto questo aforisma di Canetti, e sicuramente Canetti non ha mai letto il tuo per motivi, come dire, anagrafici. Chi può dirlo, però? Non possiamo dirlo. E questa è, dunque, a pagina 71. Sì, credo che sia a pagina 71, dove Riccardo dice: ascolta con gli occhi il mondo. Questo è un aforisma bellissimo. Ascolta con gli occhi il mondo mi ha immediatamente fatto venire in mente una delle cose più belle che io abbia letto di Canetti in tutti gli anni in cui lo leggo, cioè tanti. Per vari motivi la ritengo una delle più belle, intanto perché è scritta nel 1993. E lui muore nel 94, nell'agosto del 94, quindi è proprio un appunto dell'estrema vecchiaia, quando lui aveva già pochissima vista, 89enne, pochissima vista, energie, come possiamo immaginare, ridotte al lumicino, ma continuava a lavorare nottetempo, perché era un ottambulo della scrittura, a quello che doveva essere il libro della sua vita dedicato alla morte, e contro la morte. E dunque io ho letto quello che vi ho letto, e poi mi è venuto in mente: Canetti spesso scrive in terza persona per parlare di se stesso, come per oggettivarsi meglio e descriversi meglio, e in quella data lì appunta: nessuno lo turba, siede lì per finta, non afferma nulla, tace, non ha una rete, non è un ragno, stupisce di ruote e colori, di terreni e di aria, è ammutolito. Quando? Chi conosce la sua mano? Insaziabile l'occhio, ora che non può più ascoltare niente perché l'udito è venuto meno, la vista è costretto, è quasi come a nutrirsi con gli occhi di quel poco che gli resta, delle ruote, del vento, spesso parla di una mosca che gli si ferma sulla scrivania, lui la osserva, è l'unica forma di vita che gli capiti di avere. Tutti i suoni ormai spenti. Ecco, questo è un appunto del 93 che mi ha fatto ricordare questo. Poi però ho altre cose, adesso magari mi fermo se Domenico vuole dire qualcos'altro, ho altre due o tre cose che mi hanno colpito molto. Cioè, ma vedi, anche l'aforismo che hai citato adesso è proprio quello che mi faceva pensare prima, il fatto di rompere quei margini e quindi anche nei sensi. Certo. Perché siamo troppo a nostro agio nei sensi, per quelli che devono, come dire, devono fare, ecco. E quindi spostare nella vista l'ascolto, o nell'udito la vista, o nel tatto, questo è affascinante, questo la parola può farlo, però ci vuole una dedizione particolare, soprattutto all'ascolto, perché per esempio questo è un libro dell'ascolto, lo chiamerei anche solo il libro dell'ascolto, perché citare, nominare e dare attenzione, ed è la forma più alta di poesia per quanto mi riguarda, o di preghiera, visto che a un certo punto anche nel libro, di questo piegarsi nell'ascolto a qualcosa che può essere anche insopportabile, dove non ci si riconosce, perché il tentativo anche di trovare forse veramente uno specchio dove definitivamente non ci siamo più noi dentro. E infatti c'è la scelta del quadro di Delatour, mi pare, della donna di Georges Delatour, dove in realtà non c'è più il centro, è la fiamma che si specchia, ma noi, chi ci guarda in quell'immagine? La fiamma, quella che è nello specchio, e la donna che siamo noi, quindi iniziamo a perdere un po' l'orientamento, e questo è affascinante. La bellezza di quel quadro forse sta proprio in quello, nel senso che non scegliamo subito, ma la scelta deve essere fatta di ascolto, di attenzione, perché a chi apparteniamo in quel quadro? E c'è anche un quadro, è l'unico che mi piacerebbe fare una domanda a Riccardo, perché ha scelto questo? Perché tutti i lavori, che sai, la scelta dell'immagine, almeno per quanto mi riguarda, in Riccardo sembra quasi una scelta della parola, non è solo immagine, ma continua a scrivere qualcosa il libro, è come se per un attimo dai alla vista la possibilità di scrivere ciò che tu non puoi con la mano. E mi è capitato spesso e seguo, però c'è il primo che mi piacerebbe, ed è quello di Magritte, che è la Voix du Sang. Perché hai scelto questo lavoro, Riccardo? Perché questo apre un po' il libro ed è quello per me più enigmatico, mi affascina molto, perché te la faccio la domanda ma non vorrei quasi saperlo, perché proprio lì dove sai sono stato vicino, ma mi sento impotente. E poi è una serie di quadri di Magritte, è una serie. Questo è il sangue della vita. Per me questo quadro in cui si vede un albero che si apre con una sfera in alto e una casa in basso, comunque illuminata come sono le case di Magritte, sono le corrispondenze di Baudelaire, è la natura, l'immagine che c'è, è l'abitare, la percezione della natura in un altro modo, attraverso l'immaginazione, è il linguaggio che viene verso di noi, ed è una forma di vita segreta delle cose che giunge fino a noi attraverso un altro cammino e ci indica e ci apre altre vie. Quindi in questo senso è come se fosse, ecco, è un ordine misterioso. È un'armonia, è un ordine misterioso che compare che per un momento, perché io immagino che quest'albero sia così e poi però si richiuda normalmente, questo è un'apertura. Tra l'altro, se io cito un frammento che questo è Sohrawardi, che è un mistico persiano, Lo specchio è certo il luogo di apparizione delle forme che si vedono in quello specchio, ma quelle forme vi sono esse stesse sospese, esse non vi sono né come una cosa materiale in un luogo dello spazio, né come un accidente nel suo sostrato. Quindi è questo lavoro di sospensione, ne parlavamo con Teresa oggi, di sospensione, di sradicamento dai luoghi per abitare il linguaggio e l'immaginazione. Questo però attraverso, è come se i luoghi ci parlassero e ci parlano attraverso le immagini e le parole, insomma. Questo è un'apertura, questa immagine è un'apertura, almeno per me, insomma. Se penso anche a che cos'è la stella, cioè ormai lo immagino come un luogo, Stella dei Mondi per me è un luogo da abitare, è il luogo dove non parli ma si è parlati, cioè, come, cioè non hai lo strumento della voce, ma la voce ti parla, sei sempre tu lo strumento della voce, sei sempre tu lo strumento della visione, e questa è la, forse anche adesso rivedo un po'. Capisco quello, cioè la tua risposta, o la risposta, comunque il tuo sentire rispetto alla mia domanda su quel quadro di Magritte. Cioè, è come se mettessi subito in chiaro le cose, però attraverso questo mistero, che Magritte ne dava ampia forza nella Voix du Sang, mi pare si chiama, Voix du Sang, la voce del sangue, che è anche il titolo, ecco. C'è un altro piano, perché uno che cerca, se uno immaginiamo di vedere un quadro, cioè di leggere un titolo e immaginare poi il quadro, uno la Voix du Sang non può arrivare lì come immaginazione a quel libro, cioè anche lui crea vari strati, è come se anche il titolo diventa un'altra porta che si richiude nell'albero, che si richiude, è la porta che si richiude nella parola, e spesso accade nel libro, spesso accade, è come se ti porta fino a un certo punto verso quella verità, ma poi deve richiudere, perché la verità ti acceca. Vivere in quel luogo lì è un po'... Ti ripasso la parola, Riccardo. No, diciamo, Antonello voleva... Sì, io ho un altro paio di cose, ma... Vai. Scusa? Sì. No, perché io non finisco più, poi si attacco. Allora, io altre cose che ho letto, tra virgolette, in questo libro, altre cose che ho così sottolineato, sono il sarcasmo, di cui Riccardo è... come dire, è portatore sano da sempre, io che lo conosco da tanto, una cosa che mi ha, così come la presenza assidua del mare, Riccardo ha vissuto in mezzo mondo, ma il Nord Africa e il Sud America direi che sono state, se non ricordo male, dai nostri racconti quasi adolescenziali, direi, sono stati formativi per te, comunque sono durati a lungo, per cui questo ritornare del mare me lo spiego anche per questa tua vicinanza. E c'è della rabbia, e della rabbia che mi ha ricordato un altro grandissimo scrittore che amo, che di recente, a cui di recente ho dedicato un paio d'anni di lavoro per una cosa che uscirà a fine anno, che è Luciano Bianciardi. E poi la scrittura visuale, questa cosa che ti diverti, tra virgolette, a fare usando i miei quadernetti di musica, dove invece che le note ci finiscono delle navi, delle vele, delle barche a vela, o dei, come a pagina 58, dei complicatissimi all'apparenza sistemi di questo si chiama condivisione, che poi però spieghi bene di cosa si tratta. Allora, per esempio, il sarcasmo a pagina 82 è ancora una volta un aforisma, mi ha fatto ridere molto, ma anche, come dire, mi ci sono immedesimato. Per gli impiegati delle poste l'inferno è certo. Questa è una cosa anche che... qualche amico ci lavora, quindi non è come no, anch'io agli amici, no, ma, insomma, è a quantomeno è l'impressione che tutti noi abbiamo qualche volta avuto, poi li perdoniamo perché sappiamo che in realtà non è come dire la loro responsabilità se noi aspettiamo per delle ore per poi sentirci dire che il nostro pacco non è arrivato. La rabbia che mi ha ricordato Luciano Bianciardi l'ho ritrovata a pagina 92, in particolare quella che Bianciardi ha spiegato nella cosiddetta trilogia della rabbia, cioè il suo primo romanzo che è Il lavoro culturale, L'integrazione che è il secondo del 60, 57 Il lavoro culturale, 60 L'integrazione e poi la famosissima Vita Aga del 62. E quando lui parla soprattutto nell'integrazione della disillusione che un uomo che aveva fatto nella sua provinciale Grosseto l'apprendistato nel mondo culturale, nel lavoro culturale appunto. La disillusione che andando a Milano, lavorando in una casa editrice che lui non nomina mai, ma che è la Feltrinelli, e la disillusione, l'amarezza e poi anche la rabbia. E qui mi sembra di rileggere a pari pari quando tu scrivi: l'immaginazione violentata dalla tecnica planetaria partorisce l'industria culturale. Sul suo pelo maculato si sistemano tutti i pidocchi e le zecche che di questa immaginazione industrializzata vivono. Bianciati scriveva proprio così, scriveva questo tipo di cose, finendo per cibarsi dei loro stessi escrementi, coprofagia culturale. E non è per niente distante dalle cose che lui ha scritto poi fino alla fine, nella vita Aga, ancora più violentemente, se così si può dire, sempre con le parole. E poi la scrittura visuale. C'è stato un movimento, forse Teresa più di me può mi corregga se io sbaglio, un movimento di pittura, poeti, non lo so, che usavano la scrittura per dirigere, per dipingere. Questo è stato, vabbè, ha avuto un attimo di grande visibilità in Italia, credo tra gli anni 60 e 70. Io ho visto delle cose e le ho anche da me in libreria, incorniciate molto belle, che mi sono state regalate da suo fratello Felice, di Vincenzo Accame. Ma Patrizia Vicinelli, Ugo Garrega, ma andando in realtà indietro nei decenni. E poi ho scoperto, proprio grazie a Felice Accame, anche nei secoli, quello della scrittura visiva o visuale, alcuni la chiamano in un modo, alcuni in un altro, è molto presente. E Riccardo la usa parecchio, appunto, nei quadernini di musica, usa le parole, ce n'è uno, me l'avevo segnato, che è questo qui, a pagina 96 e 58, esatto, 96, quando su un quadernetto di musica... E questo adesso si vede poco probabilmente, ma giusto per avere un'idea, è un mini quaderno di musica formato metà A4 probabilmente, dove ci sono tante barche a vela, possiamo chiamarle navi, e poi però c'è della scrittura. E Riccardo scrive: l'uomo parlò e dall'angolo del foglio uscirono navi. E ci sono tante navi che cadono e poi alla fine uscirono navi. E poi c'è il come dire, il destino del ragno della soglia, che spiega la N scomparve, alcuni dicono che non sia mai esistita, le navi furono solo avi, eccetera, eccetera, quindi vele. E quindi questa è l'altra cosa che avevo notato, oltre al sarcasmo, alla rabbia sacrosanta nei nostri tempi, e la scrittura, sì, la scrittura visuale. E poi una cosa che però è più una domanda che una constatazione. Io, leggendo il tuo libro, ho visto del cinema, a volte mi sono venute davanti agli occhi delle immagini cinematografiche molto diverse da loro. Per esempio, a un certo punto ho visto una lentezza quasi esasperante, che però io adoro, di un regista che è Bellatar, che fa durare delle scene a volte anche 20 minuti, 25 minuti, in cui non accade nulla se non che una persona sta andando da qui a un luogo che dista 25 minuti. Adesso detta così sembra una presa in giro, in realtà sono dei film bellissimi quelli di Bellatar. E al contrario, facendo dei salti temporali, ma anche come dire, di stile molto, molto arditi, in un punto particolare, vale a dire a pagina 91, io ho letto quasi delle immagini alla Blade Runner, quindi proprio un'altra cosa, ciò che chiamavano con una certa protervia civiltà, un insieme di riti, di miti collettivi, di tradizioni, di letture, pratiche condivise, di visioni del mondo, è ora una carcassa putrescente, divorata dalle mosche e dagli avvoltoi, che banchettano con le sue carni violacee ed esangui, migliaia di libri inutili, di scriventi che si specchiano nel vuoto cloacale del loro tronfio narcisismo, eccetera, eccetera. Allora la domanda, perché non mi voglio dilungare tanto, è: quanto il cinema in questo libro, è una mia impressione che il cinema in questo libro ritorna, che immagini cinematografiche, non necessariamente Blade Runner e Bellatar, ma altro, ci sono, oppure è un'impressione come tante si possono avere? Ci sono nel libro del vento, per esempio, c'è un frammento adesso cito Il libro del vento, che per me è decisivo, e quindi il cinema conta, ed è la scena finale del, adesso dovrei cercare, non so la pagina, la scena finale del Cazzon Cou di Truffaut, quando Douanel arriva, che non ha mai visto il mare, il personaggio principale, che è fuggito da insomma, da non un fanatrofio, ma dove era prigioniero, insomma, e va verso il mare e si gira, e girandosi guarda lo spettatore, e quello è un incrocio, secondo me. Infatti, ecco, quindi sì, ci sono immagini che possono essere, e guardare lo spettatore vuol dire guardare il lettore, in fondo è come se il libro ci guardasse, e il film, quindi ci sono immagini, possono essere, nel caso del Libro del Vento, ma anche in questo ci possono essere dei riferimenti a un'immagine che può essere in movimento, oppure ci sono i dipinti, abbiamo detto, che però sono immagini, è come se non sono mai immagini illustrative, cioè sono non didascaliche, è come se si tentasse di ritrovare un'origine comune tra parola e immagine. E che è, poi sono le immagini della poesia, sono, però questo c'è, però sempre in una sorta di movimento, perché quello che adesso leggerò due o tre cose, sennò diventa, cioè la Stella dei Mondi ha ci sono dei personaggi che tornano, c'è una specie di mise en abîme, ecco, io ho fatto un disegno per un'altra presentazione, è un albero. Quindi questi tre libri sono ogni libro contiene a sua volta tre libri. E nel caso della Stella dei Mondi, ecco, è un albero, quindi, che ha tre rami principali: il fuoco dentro lo specchio, Cahier des Minuits, quaderno di mezzanotte, e gli dei minori. Quindi sono il fuoco dentro lo specchio, sono frammenti e aforismi, e poi. E il Cahier des Minuits lo stesso, è pensato in Provenza. Gli dei minori sono racconti, sono veri e propri racconti, quindi anche gli stili si mischiano, perché ci può essere c'è anche una parte fiabesca, una componente fiabesca. Quindi leggo dei frammenti, per esempio. Quindi questo, l'opera è sempre la messa in opera di un movimento. Poi ci sono frammenti in francese, l'ultima parte del libro è scritta in francese. Direttamente, la langue ouverte des rêves nous hante l'esprit, quindi la lingua aperta dei sogni ci ante, che in italiano è come se perseguitasse lo spirito, poi una ossessione, sì, nel senso di il dentro, poi a un certo punto il fuoco dentro lo specchio, a un certo punto il fuoco dentro lo specchio ci sono personaggi che scrivono dei libri nel libro, se no non si capisce, sembra che sia, per esempio, isole note ai confini dell'oblio, una creatura dello specchio. Lo specchio, soglia liquida, di là vediamo gli umani agitarsi come la fiamma della candela, mossi da chissà quale segreto. Ci hanno imprigionato, ma ho pena per loro, povera umanità, così feroce, assassina, stupida, bête. In francese bête vuol dire sia bestiale, bestia che stupido, che è stolto, no? Bestie senza animalità. La luce che cade su un vaso di frutta, la mela, l'arancia, brillano come le orbite dei pianeti. E poi... per esempio, essere scrittore e allo stesso tempo ospitare gli altri scritti. La vocazione di scrittore, il mestiere di editore, il dovere di traduttore si incrociano, si mischiano nella loro indissolubilità. Être voué à. E poi c'è un'altra cosa, pensando a quello che diceva Antonello, ci sono dei racconti veri e propri, quindi i racconti sono diversi, anche oppure dei motti di spirito. Dentro la terza parte del libro... per esempio, vi leggo uno di questi motti di spirito. Un poeta, un critico, un prete e un generale camminano per una strada sterrata in campagna. Il sole sopra di loro, il vento una brezza leggera. Quando una figura gli si para davanti e muta li guarda, il critico, un critico d'arte, subito la riconosce ed esclama: «È l'angelo nell'Annunciazione del Beato Angelico». Il prete dice stizzito: «Giovinotto, la processione è per la prossima settimana. Cosa ci fa con gli abiti della parrocchia indosso a zonzo per la campagna? Li insudicia tutti, se li tolga. Il generale fa un saluto militare e passa oltre, intimando alla figura di scostarsi. Il poeta, emozionato come un bambino, esclama «Un angelo!» e gli sorride. Morale della favola. Anche se le favole sono adespote, non hanno morale e pur cause. Vanità della critica, la Chiesa come ideologia, stoltizia generale, benedizione della poesia. E poi un'altra, poi nell'ultima parte del libro, e questo ci sono delle figure che ritornano nel libro del vento e sono figure di animali con teste umane, per esempio c'è questo centauro rovesciato, e sono dei doppi del... Che cosa sono questi doppi? Questi doppi sono forse la nostra anima, la parte di noi che è separata, mentre che però chiede di essere pensata nell'unità, insomma, e questo sempre attraverso l'immaginazione. E tant'è vero che a un certo punto di questa parte compaiono queste sono delle figure di un polpo, di una piovra gigante, sono degli affreschi nel palazzo di Cnosso. E adesso vi leggo una pagina corta su questo dio polpo, che è una specie di dio degli dei. I tentacoli ondeggiano come alghe primordiali, si irradiano nel vuoto cosmico, serpeggiano e fioriscono nei cuori come l'antenata dell'edera nei burroni del senso, dove la luce sembra mancare, fioche e albe languiscono e resistono come polle d'acqua, nell'arsura di un deserto, circondate da scorpioni madreperlacei che pungono l'anima e la intorbidiscono. Cammina sullo stelo di un fiore a precipizio l'anima vela di un ricordo a venire. Le braccia del Simurgh si agitano tutte insieme, sono soli, fuochi inestinguibili, galassie come occhi di gatta, buchi neri che covano i sogni di ogni creatura. Il Simurgh, in altre tradizioni, è l'uccello del paradiso. Qui, nel silenzio assordante di costellazioni in frantumi, nella notte di un cosmo aurorare, il Simurgh è una piovra primigenia, un polpo gigantesco, così grande da oscurare i soli al suo passaggio. Divinità antica, la prima, dio degli dei, Simurgh, detto anche Eukarion, ma altri lo chiamano Crisomat o Maugari. Nel regno delle bestie sacre, per noi centauri, è Ginda, il polpo mondo, il dio universo, matrice, piaga e piega dei mondi. Dalla sua fronte immensa e imperscrutabile, una ferita aperta a forma di stella, quasi una bocca, una vulva, stillano germogli di mondi, di galassie. Dalla sua bocca divaricata nascono corpi celesti, vomita luce, Ginda. Dalla fronte di stella nascono piccole stelle dal suo ventre infuocato, pianeti escono piangendo, strillando dal suo grembo, figlie e figlie. Canta l'albero cosmico come un fanciullo in riva al mare. Maugari, la piovra ci sovrasta, oscura i soli, sopra la Cidade dos Bichos, cioè la città degli animali, che è questa Gerusalemme celeste. Quando nuotando nel cielo giunge Maugari, la volta celeste si oscura, i soli scompaiono, la luna viene rapita. Su ogni cosa piomba una notte priva di luce, o almeno così sembra. Il re e la regina, spaventati, si chiudono nelle loro stanze. Maugari scivola su di noi e il cielo si fa burrascoso e nero, come in un'eclissi. I tentacoli si agitano e cercano prede nella città dei Sbiscius. Le mucche di Tituan sono inghiottite come caramelle. I centauri, Iebero, Temasala, noi tutti siamo in pericolo. Secondo Aran il Griot, quando Maugari prende una vita, essa rinasce altrove, perché Maugari è il prolifico e il divoratore, l'eccesso, divinità che inghiotte e moltiplica. Quindi, c'è nell'ultima parte del libro questo... Ci sono queste figure di dei metamorfici che... E poi ancora il rovescio delle parole o la dimora degli dei assenti o briciole. E poi di nuovo ci sono dei racconti nel racconto, come delle isole. No? E un'altra cosa sugli animali, se Domenico non ha nient'altro da dire. Sì, ok, poi ti faccio chiudere. Io sugli animali avevo appuntato, si sente? Sì, si sente. Una cosa che mi ha colpito molto, sempre per quel discorso che facevamo prima, che gli scrittori d'aforismi sembrano conoscersi un po' tutti. Gli animali in questo libro di Riccardo, nella Stella dei Mondi, sono presentissimi, a volte sono riconoscibili, a volte sono nascosti, c'è una metamorfosi continua che segue il racconto stesso del libro, e questo affascinava moltissimo appunto il mio amato Canetti, questo sia il discorso della metamorfosi, sia gli animali erano una delle sue, uno dei suoi interessi principali, ha dedicato la vita, ha dedicato degli interi libri, tantissimi appunti. E Riccardo a un certo punto scrive: il primo a cantare forse fu un uccello, prima ancora che umani e animali si separassero. È per questa ragione che la lingua degli uccelli è la più prossima al paradiso. E anche qui mi è subito scattato un ricordo tra le mie letture canetiane che sono andato a recuperare. Questo invece non è della vecchiaia, è della maturità, un appunto degli anni 60, della metà degli anni 60. E a un certo punto scrive: meraviglia delle meraviglie, il grido dei chiurli. Tutto qua. E io mi sono chiesto quando lo lessi, ma perché ha amato talmente tanto il grido dei chiurli per annotarlo in uno dei suoi libri? Me lo sono andato a sentire sto benedetto grido dei chiurli, e in effetti è una cosa fenomenale. Se vi capita, su internet ci sono i siti con le riproduzioni di tutti i versi. Adesso non lo rifaccio perché sarebbe una cosa oscena, però effettivamente ha un effetto molto singolare, un crescendo che poi arriva a un apice e poi se ne va canticchiando un'altra melodia. Sarebbe piaciuto a Messien, che probabilmente tra le trascrizioni dei suoi uccelli avrà messo il chiullo, perché è veramente fenomenale. Io mi fermerei qui, però due cose. Sì, prima di poi far chiudere a Riccardo. In realtà, ecco, cioè, in questo libro vedo Riccardo, vedo l'autore che non si guarda allo specchio, ma raccoglie le voci che sono dietro quella soglia, dietro quello specchio lì, le voci delle cose che devono ripetere i nostri gesti, oppure che sono fermi nel gesto dell'immobilità. E è un raccoglitore di voci, ma per raccogliere voci bisogna avere una responsabilità altissima, perché trascrivere la voce dell'altro, trascrivere la propria voce nell'altro anche, cioè, ci vuole coraggio, secondo me ci vuole molto coraggio, e si può fallire, perché c'è sempre lo specchio che poi con la scrittura che ci distoglie da quell'ascolto lì, perché vorrebbe farci cadere di nuovo nella crisalide, rimetterci a noi, rimetterci alla nostra animalità, bestialità senza anima o tutto ciò che si può dire. Però la scrittura, quanto per me è affascinante, compie un gesto incredibile, cioè trascrive qualcosa che deve ancora avvenire. E per me c'è stato un momento stasera quando si parlava di Quatre Cent Coups, il film di Truffaut, che riportava nel libro del vento una parte, poi come dicevo prima uno dei miei libri preferiti, il mio libro preferito, ma perché adesso non sto a dire perché, ma una cosa che si ama non si dice perché. E però c'è una cosa: che cosa ha detto in quella scena finale Riccardo? Nella scena, sì, ecco, nella scena Duhanel, sai che cosa dice? Dice questo, dimmi, ti prego, di che colore è il mare? Il mare non ha colore, e l'azzurro che tu vedi è il sangue degli angeli. Questo era scritto, l'avrebbe dovuto sapere Truffaut, gli è mancato. È questo, perché immagina quel testo lì dentro. Quindi la scrittura è sempre a venire, questa è la bellezza, cioè trascrive qualcosa non che abbiamo vissuto, ma che dobbiamo ancora vivere. E anche ciò che è vissuto dobbiamo ancora viverlo. Perché come diceva Mandelstam, ieri deve ancora avvenire. E forse questo è il tuo, quando nella pagina 24 è qui, o 27, non mi ricordo, quando forse hai letto prima, Riccardo, essere scrittore, essere editore. Responsabilità dello scrivere, del pubblicare gli altri. Etre vuea, e questo ha, cioè che non hai bisogno di dire a che cosa, a cosa. Non hai bisogno di dire perché ami qualcosa, perché già pronunciare quel etruea, bisogna credere a quella cosa lì. Nella scrittura bisogna credere, come una fede, se non ci credi è solo uno strumento e sappiamo come vanno a finire gli strumenti. Grazie comunque Riccardo. Grazie, grazie a voi. Vi leggo solo due o tre frammenti del finale, insomma, dell'ultima parte del libro. Allora, ci sono frammenti scritti in francese e poi tradotti liberamente in italiano. Poi alla fine c'è una piccola, è scritto in francese e tradotto in modo più letterale. Qui oublie la voix, oublie la voix. Allora, in francese voce e via si scrivono, si pronunciano allo stesso modo, però... Chi dimentica la voce dimentica la via. Gli animali, tutti noi, sosteniamo con le nostre anime corporali, spiraliformi, la volta del mondo. Persino gli alberi sono animali, bestie che non si muovono, ma che danzano al vento. Siamo dentro di noi il riposo dell'anima del mondo, la sua custodiente cura, la sua tana. Mi fa piacere, questa sera, vi ringrazio, mi fa piacere che questo libro sia stato presentato da un poeta e da uno scrittore, perché Antonello è, oltre ad essere editore, scrittore, e Domenico è un poeta. E io credo che sia per chi scrive in prosa, ma o chi scrive poesia, cioè ci sia la voce, ciò che noi diciamo, chiamiamo voce, è l'ispirazione è ciò che ci guida. Quindi credo che molti libri di oggi... nel caso della prosa ci sia un eccesso di struttura, è una separazione tra trama e forma e contenuto, insomma, no? Mentre sono indissolubili, insomma. A me piace, insomma, piace Gadda, Lezama, Schulz, sono scrittori in cui c'è uno slittamento di senso, cioè un'immagine richiama l'altra. E la poesia lo fa ancora di più, la poesia, l'arte. Lo fanno in modo naturale, quindi noi in un certo senso attraverso i libri che scriviamo, che pensiamo che hanno una loro... Quando prima Domenico diceva che lui è costretto dalla scrittura, io penso che l'opera nasca da sola, veramente. Quindi è la nostra attenzione che riesce, come se cadesse dall'alto e va ricomposta. Naturalmente più siamo attenti... E le imperfezioni sono tutte nostre, nella nostra incapacità di ascoltare, insomma, credo che sia così. E quindi attraverso i libri che scriviamo impariamo l'ascolto di noi e del mondo e di ciò che parla attraverso di noi. Quindi vi leggo un'ultima cosa e poi di questo. Noi eravamo in Francia perché stavamo stampando questo Matt Celan con il nostro amico Jacques Bremont, editore che stampa con i caratteri in piombo, che fa solo poesia. E vediamo un po' se lo trovo. Poi adesso però prima tu hai citato le immagini, questo è una adesso perché... Questo è un quadro meraviglioso che ha dipinto Teresa. La grandezza, ti ricordi? 2 metri per 160. Ed è, fa parte di una, è una specie di mondo, è un giardino del Malakut almeno, che è un mondo immaginale, cioè quella terra di mezzo che, quindi non è un quadro descritto, che per i persiani era l'immaginazione, è l'immaginazione, insomma. Quindi ci sono queste aperture date da queste immagini. E poi il libro finisce con una poesia di Celan che parla di steli senza stelle, la stella dei mondi, però. E poi, aspetta, vediamo un po' se, ecco, Aigle Vive, che è il titolo di questo: Dans le sillage du feu, l'ombre fait son apprentissage. Nel solco del fuoco, l'ombra fa il suo apprendistato. Je marche, ami de l'été, sur le gouffre du réveil. Tradotto così: cammino amico dell'estate sul gorgo del risveglio. Grazie. Posso fare due domande? Sì, anzi, scusa. Due. Anche quattro. Anche quattro, vabbè. No, c'è un po' di input nella testa, insomma, per cui... Ma intanto la prima domanda è questa, visto che io non l'ho letto, non l'ho visto, non so niente. E, allora, un lettore come lo può leggere? In quanti modi può leggere come questo vuole. Libro? Nel senso, no. La prima cosa che fa è leggere dall'inizio alla fine, ma dato che ha un carattere frammentario e poetico, si potrebbe aprire, tanto guarda l'indice, magari se ci sono dei... Quello sì. Siccome lei diceva, ha fatto vedere questa forma dell'albero, allora io mi posso orientare su un ramo di un albero e poi guardare il... Sì, sì. Concentrare. Che un lettore può chi legge lo può leggere come vuole. Leggendolo dall'inizio alla fine compaiono, ci sono come se comparissero delle figure dentro, come nelle matrioska, una forma dentro l'altra, però poi ogni libro può essere, credo, letto e aperto, poi ad apertura c'è sempre la grazia, pure c'è il destino anche, sì. In quel senso lì uno. E l'altra domanda, quindi sì, visto che parlava poi di Henri Corbin, dei persiani, eccetera, quanto di, diciamo, spinta o ricerca mistica e metafisica c'è in questo lavoro? Penso che ci sia tanto. Per me poesia e mistica sono strettamente legate, infatti, per esempio, penso che i poeti mistici dicono la stessa cosa, e in un certo senso, perché il linguaggio è una forma di ontologia, quindi per esempio nel Libro del Vento viene citata una poesia di un grande mistico arabo che fu smembrato su una croce, una specie di Cristo dell'Islam, Al-Laji. E nella traduzione di Louis Massignon, che è stato quell'orientalista che poi ha recuperato nelle varie biblioteche il canzoniere tutta la vita. Sì, sì, ma io praticamente abbiamo, quindi per esempio, quindi sì, la mistica c'è assolutamente. E poi anche questo discorso per esempio due cose nel Libro del Vento. A un certo punto ci sono questi personaggi che vanno in una specie di paradiso, che però è un paradiso da cartolina, perché per i limiti di chi scrive, arrivano ad un pozzo e guardano giù. Guardando giù, ecco quello, e questo guardando giù, che è la camera picta di Mantegna, sì. Non sono loro che guardano, ma sono guardati. Quindi il lettore è guardato. Cioè, assolutamente, quello che è. Il discorso di prima, cioè il libro esiste solo nell'atto, è come se il lettore fosse l'altra parte del libro, sì. E in un certo senso chi lo scrive è a sua volta un lettore, perché un lettore che viene letto da qualcos'altro, questo qualcos'altro può essere il divino, può essere l'immaginazione, può essere, per esempio, parlavamo di animali, cioè, non so se magari lo pronuncio male, Utkul, quel grande etologo che cita Heidegger, ha scritto un libro bellissimo sui ambienti animali, cioè esistono vari mondi nella natura, perché ogni animale, nella sua differenza, partecipa dell'essere al mondo in modo diverso. Lui fa degli esempi, infatti, quindi sì. Io continuo a chiamarli romanzi, però c'è la poesia è forte e c'è una decostruzione di quello che intendiamo per romanzo oggi, delle forme, insomma. Ma c'è una forma di ignoranza, sì. Di tavola di ignoranza e poi di ricostruzione di un linguaggio, parlo in termini mistici, proprio. Sì, c'è almeno un'impossibilità, c'è un tentativo di ritrovare uno sguardo infantile, un sentire infantile, cioè è come se i sensi ci apprendessero a sentire sentire in modo diverso, quindi decostruire la percezione attraverso l'immaginazione. Quindi questo è un lavoro. Anche decostruire la parola è la parola stessa che sì, anche. Potrebbe essere annullata. Però sì, è però... proprio l'impossibilità che ci fa scrivere, se è annullata non ci siamo nemmeno noi. Però la parola non può essere annullata in un certo senso. È come se proprio quell'impossibilità, quel tentativo, quello sfiorare qualcosa, è quello a me è sempre venuto in mente, lo ripeto spesso, ma mi affaccio, in un film di Martone, Morte di un matematico napoletano, non so se l'hai visto, bene. Con Carlo Cecchi come attore, una delle poche apparizioni nel cinema cinematografiche degne, perché lui è comunque nel teatro un genio, ed è La vita, il film è Gli ultimi giorni di Renato Cacioppoli, un matematico napoletano che è realmente esistito, fino a, è morto negli anni 50 e suicida, e qui c'è un ritorno a un certo punto anche quel motivo del suicidio nella parte di, sì, tra l'altro. E a un certo punto lui insegnava a Napoli all'università ed era col suo assistente. L'assistente di Cacioppoli era un prete, un parroco, e lui gli fa questa, nella scena di un film che lui, a quanto pare Martone ha ripreso da un racconto fatto da Lauretano, che era il suo assistente, dice così: vedi, qui c'è la vita e qui c'è la parola. Se guardi attentamente, vedi, non ce la fai, non si toccheranno mai. E io mi sono sempre chiesto, e poi ho pensato che dove sono io, nella vita o nella parola? Qui c'è la vita, qui c'è la parola, dove sono? In realtà la poesia è proprio in questo spazio dove non si toccano, è in questa impossibilità, non è né nella vita né nella parola. Questo è il punto più alto che tocca, secondo me, quel momento in cui il linguaggio, qualunque forma, viene, come dire, restituito a qualcosa di, o come dicevamo prima, di un periodo prima dell'infanzia, o comunque un periodo lontano che ancora non abbiamo visto, dove c'è una pace, senso, ma è proprio lì dentro, in questa impotenza, in questa impossibilità, che c'è tutta la nostra vita. Perché se fossimo da una parte o dall'altra, non ci sarebbe l'arte, non ci sarebbe la musica, non ci sarebbe il gesto, e il gesto è lì dentro, secondo me. Cioè noi non possiamo esistere senza gesto. E nel momento in cui non ci siamo, abbiamo raggiunto un luogo di cui non ci è dato parlare, forse. Potrebbe essere la Stella dei Monti che ci parla. Io voglio, pensando a quello che dici, una citazione che è nel Libro del Vento, da Ettilleson, tutto avviene secondo un ritmo più profondo che si dovrebbe insegnare ad ascoltare. È la cosa più importante che si può imparare in questa vita. Quindi c'è lei, no? Come se ci fosse un'emotività che noi abbiamo perduto e che bisogna ritrovare. Nel momento in cui adesso ci devo citare per forza un'altra, a forza di citazioni, però questa anche ha un senso, hanno tutte un senso. Questa è di Camus. Sì, nulla impedisce di sognare anche nel tempo dell'esilio, poiché questo almeno so di scienza certa, che un'opera umana non è nient'altro che questo lungo cammino per ritrovare con i sotterfugi dell'arte le due o tre immagini semplici e grandi sulle quali una prima volta il cuore si è aperto. È necessario sapersi dare al sogno quando il sogno si dà a noi. Questo è il cammino. Questa semplicità che attraverso, che arriva, che viene, che è donata, insomma, che è la grazia, che è il movimento, non so. Voilà. Grazie di... Grazie a voi. Compreremo il libro, no? Sì, certo. Va bene. Grazie. Domenico, Antonello, grazie a voi. È stato un piacere. È stato un piacere ascoltarvi. Speriamo che... A proposito, visto che ce l'ho, che non è dedicato. Me lo dedichi? Sì, ma io ce l'ho perché ho la penna. Ah, no, con la matita. Dedicato con la matita, giustamente. Allora questa di matita. Allora, mettilo rosso, questa assolutamente, sì. No, la penna, la matita. Ok. Aspetta che... Wow. Bevo un po' di acqua, era mio. Con piacere, sì. Io sto già pronto per il mio. Allora vado a prendere, Faccio il vostro, la penna d'osso. Come vuoi, se ce l'hai, sì, io la penna blu, una mattina. partita, ma tu scegli come fare. Io non sono schizzinoso. Mi piace la penna rossa. Anche il pennarello nero. La penna rossa lo sbocca però. Forse pensiamo qualcosa con Nicola. Aspetta che... Sì, capiamo se c'è la mostra. Mi piace quello.